Senta, meno un Dicevo, pulito. metti l'emo. Grazie, che sei bello. tutti e quanti sono serissimi. Questo sì. Ah! Ave Maria, questo sì. Guardalo! Questo sì, questo? Vieni parlando, Se vieni accetto mi teme non mu puli che Και το μα.